Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Santa Notar Nicola, parte decima. A Milano mi sentivo solo, evitavo di fare qualunque amicizia, mi pareva una città ostile. Ogni mio gesto era ormai fatto in funzione di ciò che ero diventato. Controllavo tutto, perfino il modo di vestirmi, di presentarmi. Sì, anche con le donne. Mai un legame serio, duraturo, che mi spaventava. Temevo di tradirmi o di trovare una donna troppo furba o curiosa. Molte storie senza seguito e alcune si stupivano di questo lato del carattere che faticosamente mi costruivo. Era la prudenza a costringermi a vivere a quel modo. Ne parlai con Piero. «Perché non ti sposi?» mi disse. «Ci avevo pensato parecchio, ma non mi sembrava giusto. Coinvolgere una persona in una vita che poteva finire tragicamente da un momento all'altro. Anche mia madre premeva da quel lato. È una brava ragazza e ti vuole certamente bene. Sposala!» Fu nei primi mesi del 1965 che mi decisi a farlo. Franca aveva un fratello maggiore che non faceva mistero di una forte antipatia nei miei confronti e che a un certo momento cominciò a stuzzicare la mia ragazza. Una sera arrivai inaspettatamente e la trovai con gli occhi rossi. Lei non rispondeva, chiesi spiegazioni a suo fratello che mi rispose in malo modo. Venimmo quasi alle mani. Il giorno dopo andai a prendere Franca al lavoro e vuotò il sacco. Ormai era in una situazione insostenibile. L'unica soluzione era sposarci. Le ricordai che mio padre non aveva resistito ad avere una famiglia e visto che gli assomigliavo, un giorno avrei potuto fare la stessa cosa. Rispose che non le importava, pur di andar via con me avrebbe corso il pericolo. Mi sposai nel maggio del 1965 a Torino. Eravamo assai diversi. Franca era la mia compagna muta. Aveva paura di sbagliare qualsiasi cosa. Penso che ai primi tempi avesse soggezione di me e io non l'aiutavo affatto. In fondo quel matrimonio fu dettato anche dalla necessità inconscia di crearmi un punto di riferimento, una specie di oasi in cui scaricarmi e sentirmi sicuro. Le ore con lei erano piane. Evitavo le piccole beghe quotidiane. Certi problemi mi parevano privi di significato. Cercavo di attutire tutto, cercavo disperatamente il mio cerchio magico, perché ormai ero convinto che mi aspettasse la galera o la morte. Con lei era facile, bastava facessi il marito. Tante volte la misi alla prova. Viaggi improvvisi, trasferimenti apparentemente immotivati, assenze notturne. Lei ne soffriva, ma non osava chiedere. Quando sorgevano discussioni o obiezioni, mi comportavo da terrone e tutto finiva lì. Indubbiamente era la persona adatta per una vita come quella. Dopo il mio arresto, il dottor Sgarra, della mobile di Torino, mi disse: «Sta tranquillo, ho interrogato personalmente tua moglie. Mi è bastata un'ora per capire che anche in questo sei stato abile. Ti sei scelto la moglie giusta, è caduta letteralmente dalle nuvole». In quegli anni, dal 1965 al 1967, portammo a termine una lunga serie di assalti alle banche di Torino e Milano, oltre che a una gioielleria. A mano i piani diventavano sempre più audaci. Ormai non attaccavamo più una banca per volta, ma due o tre. La preparazione era sempre lunga e complicata. Rubare le auto sempre più pericoloso. Fu per questo che escogitammo le doppiette e le triplette. La polizia ne fu disorientata e l'opinione pubblica sgomenta. molti dirigenti della squadra mobili furono trasferiti in Sardegna per l'incapacità dimostrata. I giornali non ne facevano mistero e li attaccavano. La prima vittima fu Iovane, poi Grapponi e altri ancora. Tutte le sere a Torino e a Milano si facevano retate che regolarmente non approdavano a nulla. Molte trappole furono tese per catturarci inutilmente. Le banche, per esempio, inventarono il guardiano davanti all'ingresso. Subito dimostrammo che non serviva. Infatti, oltre al bottino, conquistavamo anche una pistola, quella del poliziotto, naturalmente. Con l'ingresso di Rovoletto, così grande e grosso nella banda, questa acquistava una caratteristica precisa. Pochi minuti dopo l'assalto, la polizia, attraverso le descrizioni fisiche, sapeva che eravamo noi. Decidemmo di trovarci tutti insieme, solo se era indispensabile. E dovevamo farlo con ogni cautela. Nulla veniva lasciato al caso. Eppure i contatti, anche se in città diverse, erano giornalieri. Dopo aver assaltato le tre banche a Milano nel giro di 48 minuti, abbandonammo completamente la Lombardia. Era il 12 novembre 1965. Sposato da pochi mesi, avevo messo su casa a Torino. Ci fu una riunione a casa mia, alla quale partecipammo tutti e quattro. Anche quest'ultima operazione era andata parzialmente bene. Esecuzione impeccabile, tutti erano sbalorditi. Anche Danilo, che pure non aveva voluto parteciparvi. Quando io e Piero gli avevamo proposto il piano, non aveva esitato a definirlo pazzesco e aveva anche affermato che non avremmo avuto nessuna possibilità di farcela. Il vecchio partigiano era ormai in crisi, glielo feci capire con qualche sfottò. Tuttavia, solo per un aspetto, aveva avuto ancora una volta ragione. L'incasso era stato di 21 milioni, troppo pochi per quello che avevamo preventivato e per il rischio corso, che era stato enorme. Avevamo scelto banche buone, quasi centrali, con 15-20 impiegati. Decisamente c'era qualcosa che non funzionava. Confrontammo i nostri assalti con altre rapine e ne capimmo il motivo. In città il margine di tempo era troppo breve. In banca non si restava per più di 2 minuti, anzi, in seguito avremmo perfezionato i tempi fino a restarci per 50-60 secondi, come in piazza Zandonai. La polizia perfezionava i tempi di intervento sui nostri, quindi bisognava fare sempre più presto. Ormai io ero addetto alla raccolta dei soldi. Non mi preoccupavo d'altro che di saltare immediatamente sul box del cassiere, prima ancora che i miei compagni si fossero dichiarati. Nei paesi, invece, il problema del tempo, almeno in questi termini, non esisteva e si sarebbe potuto stare benissimo per lunghi minuti a cercare con più metodo. Alla riunione prendemmo delle decisioni importanti. 1. Mi sarei trasferito in un'altra città, avrei messo su casa con mia moglie e avrei cercato altri obiettivi. 2. L'attività sarebbe continuata nella provincia di Torino. Feci un giro di perlustrazione a Genova, Bologna e Roma. A decidermi per Genova fu sia la vicinanza con Torino che l'accessibilità di alcune banche. Inoltre, dettaglio importante, avevo trovato appoggio presso un mio vecchio commilitone, col quale avevo mantenuto rapporti epistolari. Costui era impiegato al porto e andai a cercarlo. Ci facemmo grandi feste e mi invitò a casa sua. Si era sposato con una bella ragazza. Durante il pranzo annunciai la mia intenzione di cercare casa a Genova e questo li entusiasmò. Lina, così si chiamava la moglie del mio amico Mauro, si offrì di aiutarmi a cercare un appartamento. Intanto cercai un lavoro di copertura presso una ditta di rappresentanza a Rapallo. Mi furono di grande aiuto e presto trovai un appartamento a Manin. Franca venne giù, mettemmo a posto la casa e fummo in grado di invitare a cena i nostri amici. Ero soddisfatto e in poco tempo avevo risolto gran parte dei problemi. Alla fine della scenetta, Lina chiese di telefonare a suo padre, che ci invitò tutti per il giorno successivo, in cui era libero dal servizio. Quest'ultima parola mi suonò come un campanello d'allarme. Sapevo poco di Lina. Più tardi, con cautela, chiesi di quale servizio si trattasse. Candidamente mi rispose: il mio papà è maresciallo alla questura. Questo era un imprevisto abbastanza seccante, ma ormai non potevo farci nulla, non potevo rifiutare l'invito senza far nascere sospetti. La sera dopo il maresciallo Cellini fece gli onori di casa, fu un ospite perfetto e discreto, si interessò al mio lavoro e mi invitò a rivolgermi a lui se avessi avuto delle seccature. A un certo punto si mise in un angolo a parlare fitto fitto con Lina e mia moglie, mentre io e Mauro guardavamo un incontro di boxe alla televisione. Poi mi comunicarono quello che avevano deciso insieme. L'indomani Franca e Lina sarebbero andate in questura a fare la spesa allo spaccio. Mi fecero promettere, in presenza del maresciallo, che sarei andato a prenderle. Questo era troppo. Dissi che mi era impossibile per motivi di lavoro e che mi avrebbe sostituito Mauro. Mi precipitai a Torino e informai Piero dei preoccupanti sviluppi. Era presente Danilo, che scoppiò in una fragorosa risata e questo sdrammatizzò la situazione. Disse che non dovevo preoccuparmi, potevo presentarmi dovunque, senza destare sospetti anche a cena dal questore. E così la spesa in questura diventò un'abitudine quindicinale. Molte volte ci andavo con i miei amici e ci fermavamo nel bar a chiacchierare affabilmente col maresciallo e altri suoi colleghi. Un giorno si parlò anche di rapinatori. Nei locali al piano di sopra c'era una riunione di tutte le gerarchie poliziesche del triangolo industriale. Oggetto della riunione era la nostra banda. Qualche tempo dopo, un altro episodio. Uscivamo di casa con i nostri amici per andare al cinema. Quando Lina si fermò a salutare un anziano signore che abitava al numero civico precedente al mio. Dopo, tranquillamente mi informò che era il dottor Costa, capo della squadra mobile. Se da un lato ero in una botte di ferro, dovemmo d'altra parte riconoscere che attaccare Genova diventava sempre più pericoloso. Avevo studiato una banca centrale molto buona e spesso ci andavo per controllarla. Un mattino il poliziotto di servizio scattò sull'attenti e portandosi la mano alla visiera mi salutò. Buongiorno, dottore. Nessun dubbio. Guardava proprio me. Alle mie spalle non c'era nessuno. Stupito, ebbi la presenza di spirito di rispondergli. Buongiorno, caro. Qualche ora dopo decisi di controllare nuovamente. Si ripeté l'identica scena. Telefonai a Piero dicendogli di venire giù immediatamente. Non gli dissi nulla. Volevo fargli una sorpresa e così fu. Sempre più spesso qualcuno delle pantere mi salutava. Per molti, evidentemente, era un collega. Decidemmo che alla scadenza del contratto d'affitto avrei abbandonato Genova, ma non feci in tempo. Tutto finì il 25 settembre 1967, l'ultima azione in quattro. Dopo Piazza Rivoli avevamo arruolato Adriano Rovoletto, insuperabile come autista. Quella volta portammo anche una nuova recluta, Donato Lopez. Fu la sua prima azione, ma anche l'ultima. L'assalto alla Banca di Milano fu di una grande perfezione tecnica. Ormai eravamo dei veterani, solo che dopo, per caso, fummo intercettati dalla polizia. Sparatorie, morti, feriti, uno dei nostri, Rovoletto, catturato. Riuscimmo ancora a sganciarci. Piero e io, e rimanemmo latitanti 8 giorni, braccati dappertutto. Ce ne rendemmo conto con angoscia e per noi fu l'ora della verità. Eravamo ricercati da tutti, polizia, cittadini, uomini, donne, tutti contro di noi. Che sconfitta, anche se 20 milioni d'Italia erano una potente molla che eccitava l'istinto di caccia. Eravamo soli, in campagna, fuori da ogni contatto umano. Dentro di noi stava prendendo corpo la certezza che le nostre ore erano contate, ci consideravamo già finiti. Le prime ore furono assorbite dalla fuga, non ci fu tempo per pensare a parlare. Quando finalmente riuscimmo a trovare un posto dove sostare con calma per riprendere le forze, cominciai a riflettere. Tutto appariva buio per il momento, ma in fondo avevo motivo di nutrire ancora qualche lievissima speranza. È andata male, dissi a Piero, ma cosa pensi? Possiamo ancora farcela? Abbiamo ancora degli amici, abbiamo tutti quei soldi. È difficile raggiungerli, metterci in contatto, però dobbiamo studiare il modo di riuscirci. Quel denaro che abbiamo messo da parte per finanziare l'attività politica ora potrebbe salvarci. Piero non rispose subito. Eravamo in un boschetto di pioppi, lungo il Tanaro, in una casupola di cacciatori. Tutto intorno a noi era pace e quiete. Era un bellissimo settembre. Ma a 1 chilometro di distanza sul ponte che portava ad Alessandria vedevamo i posti di blocco dei carabinieri. A Milano era andata male, ma nonostante tutto noi due eravamo riusciti a venirne fuori. Avevamo preso un treno operaio a Porta Genova. A Mortara, uno della Madama ci aveva visti, avevamo fatto appena in tempo a scendere. C'erano due suore. Prendemmo le loro valigie e le accompagnammo fuori dalla stazione, mentre stavano arrivando dei carabinieri. Era ormai notte, in una cittadina sconosciuta anche il nome era inospitale. Non potevamo girare per le strade deserte, prendemmo la via della campagna. Dopo un poco a piedi, un poco a bordo di un'auto sulla quale due giovani di Olevano ci avevano dato un passaggio, potemmo allontanarci da Mortara. Con cortesia e ingenuità si erano fermati, vedendoci a piedi nella nebbia. Era una strada che portava al loro borgo. Quando li vedemmo fermarsi un poco avanti a noi e aspettare, ci prese quasi un accidente. Potevano avere conseguenze molto gravi, ma riuscimmo a mantenere i nervi a posto. Ci facemmo accompagnare in paese e li lasciammo andare. Prendemmo il treno per Alessandria. La mia proposta iniziale era stata di tentare la strada del sud. Se fossimo riusciti ad arrivare in Calabria, lì difficilmente ci avrebbero beccati. Se non ci fosse stato quell'intoppo a Mortara, forse ci saremmo riusciti. Avevamo perso altre ore preziose. Pensavamo che se avevano bloccato una cittadina, chissà come il nostro treno che proveniva da Milano sarebbe stato ricevuto ad Alessandria. Ora l'unica soluzione era scendere a Val Madonna, frazione di Alessandria, e poi andare a piedi alla stazione e prendere il treno che da Torino andava al sud. La polizia cercava qualcuno che scendeva dai treni provenienti da Milano, non qualcuno che entrava in stazione. Ci trovammo in una zona della quale non eravamo pratici. Tentammo di raggiungere Alessandria, niente da fare, posti in blocco su tutte le strade, i ponti, gli incroci obbligati. Camminammo tutta la notte, impossibile passare. Ormai era scattato l'allarme, tutta la polizia era mobilitata, i giornali, la radio, la televisione avevano diffuso la notizia, le fotografie. Non restava altro che trovare un posto in cui sparire e attendere che si calmassero le acque. E riuscimmo a trovarlo, sebbene non fosse facile, in una delle zone più popolate d'Italia. Ora potevamo avere un po' di calma per fare il punto della situazione. Piero confermò. Per gli amici i soldi, le armi, bisognerà trovare il modo di arrivare a Torino. Ci vorrà del tempo, bisognerà aspettare che tutto si calmi ormai. Siamo infognati, qui non abbiamo scelta, è una lotta contro il tempo. Avevi ragione, al sud sarebbe stato diverso. Avremmo potuto restarci dei mesi, senza essere segnalati, poi ci saremmo messi in contatto con gli amici. Ora invece la situazione è capovolta, possiamo farcela anche qui. con tanta fortuna e con tanta capacità di resistenza. Per ora non possiamo saperlo, in seguito vedremo. Se riusciremo a superare il periodo più acuto delle ricerche, forse potremmo prendere contatto con quelli che conosci, recuperare il denaro e poi andare al sud. Là studieremo il da farsi. D'altronde, gli amici potranno anche aiutarci in altro modo, non credi? Piero annuì. Non ci restava che aspettare. La cosa più urgente era trovare cibo e acqua. Risolvemmo anche questo problema, per quel tanto che bastava a stare in piedi. Per alcuni giorni tutto andò liscio, ma era una zona battuta dai cacciatori. Alla fine qualcuno ci vide, non ci riconobbe, ma ormai non era più prudente rimanere. Si avvicinava il fine settimana, chissà quanti altri ne sarebbero venuti. Tentammo di andarcene di giorno, ci sembrava che tutto fosse tranquillo, ma alcuni ragazzi segnalarono la nostra presenza. Piombarono sul posto i carabinieri, facemmo appena in tempo a penetrare in un boschetto. Dietro di noi c'era il fiume. Aspettammo con le armi in mano. I carabinieri arrivarono a un paio di metri da noi. Non osarono entrare nel boschetto, se ne andarono. Dopo l'arresto seppi che parecchie segnalazioni precise erano giunte sulla nostra presenza nella zona. Ci rendemmo conto che non potevamo più rimanere sul posto. Avrebbero potuto tornare in forze e non avremmo avuto scampo. Decidemmo di andarcene di notte, attraverso la campagna e le colline. Fu una marcia massacrante. Dopo 3 giorni, a tappe, raggiungemmo il Casalese. Avevo continuato a tirare la marcia. Mi premeva arrivare al più presto in qualche posto, come ad esempio Casale, che conoscevo, per cercare di mettermi in contatto con quella gente che avrebbe potuto tirarci fuori dai pasticci. Avevo una meta e ciò mi impediva di sentire troppo la stanchezza e la fame. Piero era meno desideroso di andare avanti, se ne fregava, era indifferente, diceva che la questione era fare passare più tempo possibile perché le acque si calmassero. Il 2 ottobre eravamo a Villa Bella, era mattino. Ci videro e ci riconobbero. Comperammo da mangiare e riprendemmo la strada dei campi. Arrivammo a un casello ferroviario abbandonato. Entrammo, non si poteva più andare avanti senza essere visti da qualcuno. Era giorno fatto. Siamo fregati, disse Piero. A quest'ora la polizia sa che siamo da queste parti. Arriveranno a centinaia, magari con i cani. Ci troveranno. Eppure non possiamo andarcene di qui, risposi. Nei campi ci sono i contadini, i cacciatori. Siamo obbligati ad aspettare la notte. La sera eravamo ancora lì, nessuno era venuto, ma non eravamo riusciti a dormire. Il posto era troppo vicino alla strada. Ci parve che i nostri timori fossero infondati, ed era vero. Le indagini si erano indirizzate da un'altra parte. Era necessario un po' di riposo e passammo la notte nel casello. Fu l'ultima notte di libertà. Era durata 8 giorni la nostra latitanza. Ci cercarono dappertutto. Fecero rastrellamenti, posti di blocco, arresti in massa di pregiudicati. L'operazione costò centinaia e centinaia di milioni allo Stato. Se avessimo avuto un minimo appoggio, ce l'avremmo fatta anche stavolta. Ma pagammo il prezzo del nostro isolamento. Ogni giorno che passava prendevo coscienza di questo fatto. Riflettevo su tutto quanto. Cominciavo a capire. Avevo voluto marciare da solo e questo era il risultato. Senza legami, con nessun movimento politico, anche indiretto, ci eravamo chiusi in noi stessi. I miei compagni si erano addirittura persi in un individualismo esasperato. Mi venivano in mente le invettive di Piero contro la classe operaia, colpevole di non fare la rivoluzione. Alla fine era arrivato a rifiutare persino la sua stessa classe. Chiunque non prendeva in mano il mitra subito era un traditore, un vigliacco. Ripeteva queste cose anche mentre eravamo latitanti. Dovetti convincerle con lunghe discussioni che forse non tutto quello che diceva era giusto. Forse eravamo stati noi ad andare troppo avanti, e avanti nel modo sbagliato. Ora ne subivamo le conseguenze. Era inutile prendersela con gli altri. Tutti ci erano nemici, era vero, ma era anche colpa nostra, continuavo a ripetergli. E dovevamo cercare di cavarcela o di morire con dignità, ma senza far pagare i nostri errori ad altri, a quelli della nostra classe. Respinsi così ogni proposta di usare la violenza contro i poveracci che ci venivano a tiro. Autisti, cacciatori, contadini, i poliziotti erano un'altra cosa. Alla fine Piero cominciò a capire, almeno da un punto di vista umano, che non potevamo comportarci in un certo modo. Qualsiasi cosa avessimo fatto, eravamo sempre diversi dai fascisti, dai borghesi e dai criminali prodotti dalla borghesia. Questo dovevamo ricordarlo, nonostante tutto. Forse nel combattimento con la madama avevamo colpito qualcuno, anche prima. Era già successo in momenti di estrema tensione o per errore, ma questo non significava l'intenzione di uccidere. E così rinunciammo anche a quelle che potevano essere le ultime possibilità di salvarci. Magari non ce l'avremmo fatta lo stesso. Tuttavia, dei veri criminali avrebbero tentato. L'ergastolo era certo, e anzi, nel bilancio era probabile lasciarci la pelle, dunque non c'era niente da perdere nel tentativo, tranne che il rispetto della nostra coscienza. Per tutta la fuga ci attenemmo a questa linea di condotta. I primi giorni Piero aveva tentato di imporre una sua linea, impostata a un'estrema durezza. Solo dopo ne avrei compreso il perché. Io sentivo il fallimento politico, ma credevo di avere ancora una possibilità di recupero. Lui sapeva che eravamo finiti, che non c'erano speranze. Tutto era bruciato alle nostre spalle. Per lui si trattava ormai solo di un puntiglio, durare il più a lungo possibile, in giorni e in ore, e vender cara la pelle. Riuscii comunque a farlo ragionare in modo diverso e non facemmo del male a nessuno. Venne il 3 ottobre. Ci svegliammo prima dell'alba. Eravamo intirizziti dal freddo con le ossa rotte. Prepariamoci, è ora di andarcene, dissi svegliandolo. Brontolò un poco, cercò di nicchiare. Non possiamo metterci in viaggio, non abbiamo neppure l'acqua. Era vero, e non sapevamo dove e quando trovarla. L'unica soluzione era tornare a Villa Bella, conoscevamo già il posto. Se non è venuto nessuno finora, è stato perché non erano sicuri che fossimo noi. Magari avranno pensato che abbiamo preso il treno per Casale, chissà. Andiamo allora, finché c'è buio. Una passeggiata di 2 chilometri ci sgranchì le gambe, ci scaldò i muscoli. Arrivammo in paese, fummo notati da qualcuno, prendemmo l'acqua, tornammo al casello. Lungo la strada discutemmo della situazione. Ormai era quasi certo che ci avevano riconosciuto. Al casello dovevamo tornare per riprendere la borsa contenente il cibo ed altro, ma stava facendo tardi. Vedevo che Piero si rabbuiava sempre di più. Era molto teso. Aveva cominciato ad essere irritabile a mano che ci avvicinavamo al casale. La sera prima aveva anche proposto di tornare ad Alessandria. Ora, dopo che ci avevano visti, gli stava tornando l'espressione di 8 giorni prima a Milano. Non parlò più fino al casello. Andammo al piano superiore, cominciai a preparare la borsa. Lui si sedette e accese una sigaretta. Che cosa fai? Ce ne andiamo? Dove? Ma a Casale. Cominciamo intanto a uscire di qui. Abbiamo ancora una mezz'oretta prima che escano i contadini. Dobbiamo arrivare a Casale, non c'è molto. Di lì cercheremo di telefonare ai tuoi amici, no? È inutile, è tutto inutile, rispose Piero. Come? Qui o a 1 chilometro di distanza, a Casale o ad Alessandria, è tutto la stessa cosa, non fa differenza. Siamo fottuti. Non c'è niente, non c'è soluzione, non esiste nulla di ciò che credi, nessuno che ci possa aiutare, capisci ora? Ma che cosa dici? Quel che ho detto, nient'altro. Sono stanco, stanco morto. Non c'è motivo di muoversi. Non c'è una meta. Morire qui o un po' più in là è la stessa cosa. Siamo al punto in cui non c'è più nemmeno una ragione valida per mentire. Lo ascoltavo allibito. Può darsi che vengano, come può darsi che no. Sono stanco. Stai un poco tu alla finestra. Guarda la strada. Avverti se arrivano. Se per caso anche stavolta non hanno creduto alle notizie dei paesani, magari hanno pensato a un falso allarme, stasera ce ne andremo. Andremo dove deciderai tu. Per me ormai tutto è indifferente. Mi pareva di capire e al tempo stesso mi rifiutavo ancora di credere. Chiesi ancora spiegazioni. Tutte storie, erano tutte storie. Cosa vuoi che anche adesso continui a raccontare storie? Non ci sono soldi, non ci sono amici, ci siamo solo tu ed io, e tutto il mondo contro di noi. Mi sentii gelare, poi mi venne una rabbia fredda, ma mi mancò perfino la forza di bestemmiare. In quel momento capii che tutto era veramente finito. Libri ribelli. Libri ribelli.